Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati anche a questa puntata dei Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon. Torniamo dunque sui fumetti e la resistenza, tema che abbiamo trattato la volta scorsa a proposito della mostra che il 25 aprile si è messa in campo a Firenze con due fumetti, due autori che hanno dedicato alla resistenza le loro strip. Uno era Camus e l'altro è Clario Nesti. Ne abbiamo parlato con la curatrice Nadia Nicolai, che ha approfondito anche il tema di Camus, in particolare dei siti che raccolgono queste memorie resistenziali. Oggi parliamo ancora di resistenza, veniamo però a due altri autori fiorentini, Clario Nesti e Vinicio Berti, ben conosciuti dai lettori del Pioniere e non solo per le loro produzioni sulla resistenza, ma anche perché Vinicio Berti è autore del famoso Chiodino, uno dei bestseller fumetti del Pioniere di Gianni Rodari, mentre Clario Nesti, oltre ad avere costruito belle copertine per gli anni 50 del Pioniere, è stato autore anche di fumetti d'avventura con Paolo Bragaglia, detto anche Isan, come Terrore negli abissi o ancora La città sepolta. Però anche questi due autori non sono sottratti al fascino della memoria e hanno costruito con le loro matite delle storie appassionanti sulla resistenza proprio fiorentina. E quindi sempre con Nadia Nicolai, Morina Moretti ha un po' ricostruite le caratteristiche sia di Clario Nesti che di Vinicio Berti per la nostra trasmissione. Clario Nesti è un ottimo disegnatore specializzato in copertine. Noi abbiamo messo in mostra Allarme sull'Arno, un fumetto pubblicato sul Pioniere, sul numero 16 del 57 del Pioniere, poi è stato ristampato sul Pioniere dell'Unità nel 64 e infine poi è stato raccolto nell'antologia partigiana dell'Almanacco 2, sempre La Libertà, sempre del Pioniere nel 74. Clario Nesti ha dedicato evidentemente questo fumetto proprio ai ragazzi, ai bambini, perché prima di tutto introduce la presenza di due piccoli ragazzini, di due ragazzini che aiutano l'eroe Fulmine, che è l'eroe tipico romanzato, diciamo un po' il partigiano romanzato, aiutano l'eroe a catturare un tedesco. Questo probabilmente è stato introdotto da Clario Nesti, considerando che nel 51 il Pioniere aveva pubblicato un fumetto molto interessante sulla liberazione di Napoli, e quindi là dove naturalmente gli Sciuscià facevano da protagonisti, chiaramente. Sì, come partecipanti effettivi. Effettivamente come partecipanti. Ora, diciamo che anche la popolazione fiorentina è stata molto attiva durante la battaglia di Firenze, perché Allarme sull'Arno, a differenza del primo fumetto, si riferisce alla battaglia di Firenze, che poi finì nel settembre. Lui ha messo probabilmente questi due ragazzi per uno scopo educativo. Questo è quanto pensiamo noi, può darsi anche che siano altre le cause, però senz'altro, considerando la pubblicazione fatta nel 51 di Scugnizzo, forse lui ha voluto dare ai ragazzi un maggiore apporto di quello che forse in realtà non hanno avuto. Sì, considerando anche che Pioniere era un'illustrazione, un giornale illustrato proprio per ragazzi e bambini, ragazzi, quindi ha voluto valorizzare, diciamo, la figura, una figura di bambino, sì.

hanno figli che non sanno la storia di ieri. Io son solo e passeggio tra i tigli con te cara che allora non c'eri. E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, mi vivessero in quel che tu speri, oh ragazzo color dell'aurora. Avevamo 20 anni oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene. Continuiamo allora a sentire la chiacchierata di Morena Moretti con Nadia Nicolai. Dopo aver esaminato un po' le caratteristiche di Claudio Nesti, veniamo a un altro personaggio di grande rilevanza dell'area toscana, fumettistica, ma evidentemente non solo, anche pittorica, che è Vinicio Berti. Tutto il male. Nadia Nicolai, ti volevo chiedere un'altra cosa, che è questa. Tu mi sai dire anche qualcosa su Vinicio Berti relativo al pioniere, al suo tratto, alla sua grafica, alla sua storia? La storia di Vinicio Berti, come le ho detto, non abbiamo ancora incominciato a fare una disamina approfondita dei lavori, degli altri lavori, perché è quello che noi tentiamo di fare, sì. vedere un attimino, metterli nel loro periodo, collocarli con tutte le sue caratteristiche. Sappiamo che Vinicio Berti è un grandissimo pittore astrattista, che era un convintissimo comunista, diciamo, che ha lavorato per il pioniere in maniera ampia e estremamente egregia, e sappiamo che c'è qui a Firenze c'è una grossa raccolta dei suoi scritti, un fondo importante presso la Maruscelliana, la biblioteca Maruscelliana, dove intendiamo andare il più presto possibile per continuare la ricerca su continuare su la ricerca. Lui ha per la Toscana, tramite naturalmente sempre il pioniere, ha pubblicato un fumetto intitolato Ore 6:31 precise. È un fumetto che riguarda praticamente il Vorno, perché si tratta di un'azione che i partigiani dovevano fare facendo saltare un treno che passava dal ponte di Calafuria alle 6:31 precise. Purtroppo però prima di questo treno doveva passare un treno di antifascisti sulla stessa linea e a pochissimi minuti di distanza dal treno, diciamo, da far saltare. E c'è tutta una serie di azioni che questi partigiani fanno in modo da arrivare in tempo sia a

In seguito fu anche usato dal famoso artista giapponese Hokusai in Hokusai Manga e da Rakuten Kitazawa, che fu realmente il primo disegnatore ad utilizzare il termine manga. Il fenomeno manga si afferma maggiormente nel nostro paese agli inizi degli anni 90, grazie a case editrici come la Glenat, come la pubblicazione di Akira, la Granata Press, con la pubblicazione di Ken il Guerriero e di alcune riviste quali Magazine and Zero. Successivamente la casa editrice Star Comics pubblica tra gli altri gli indimenticabili e famosissimi manga di Dragon Ball. Noi queste cose le abbiamo conosciute negli anni 80 nella TV con i cartoons e quelli che in realtà si chiamano anime e non già manga. Anime dunque, il termine deriva dall'abbreviazione di animation, traslitterazione giapponese della parola inglese animation, ovvero animazione, e le anime possono essere prodotte in diversi formati per il mercato home video, come original anime video, per la TV sotto forma di serie televisive come noi li abbiamo conosciuti, per internet e web TV come original net anime e infine per il cinema come lungometraggi, mediometraggi o cortometraggi. Per saperne di più sui manga giapponesi peschiamo dalla rete questa scheda. Inizialmente il manga in Giappone non esce nei classici volumetti come abbiamo tutti noi in Italia, che può essere il classico formato tankobon senza sovracoperta, oppure il tankobon però magari un po' più grosso, o appunto chiaramente il manga con la sovracoperta e qualche pagina anche a colori. In Giappone il manga nasce sulle riviste, sono delle riviste però effettivamente molto più grosse rispetto a quello che conosciamo come concetto di rivista in Italia, che è più un giornalino. E quello che stupisce all'occhio magari di noi occidentali, quello è il prezzo di queste riviste. Questo 500 yen, che dovrebbero essere 4 euro, vabbè, in Italia la farebbero 8 euro una rivista del genere. Queste vengono, ad esempio questa che è Weekly Shonen Jump, quindi la rivista conosciuta come Jump, fondamentalmente la rivista principale numero uno da tantissimo tempo per quanto riguarda lo shonen, la rivista che pubblica Naruto, Food Wars e altri decine e decine di manga tra quelli avuti nel passato, e costa appunto 240 yen, che sono praticamente neanche 2 euro credo. E come nasce? Ci sono queste riviste che pubblicano questi manga a capitoli, al massimo 2 capitoli a settimana, ma difficilmente se non in rare occasioni vediamo 2 capitoli alla settimana, di tutti questi manga che vengono poi valutati da un pubblico per decidere appunto la loro sorte, fondamentalmente, perché il mangaka giapponese non è come il fumettista magari italiano o americano che produce una graphic novel, può andare bene, può andare male, ma il suo lavoro è finito e quindi si vede pubblicata la sua opera per intero. Qui si va a capitoli, quindi se dopo 3 o 4 capitoli il gradimento non è così alto, questa serie ha il rischio di essere cancellata, come è successo per tantissime. E quindi magari l'autore ci potrà riprovare con un'altra serie, oppure demoralizzarsi e quindi rinunciare alla carriera di mangaka, che in Giappone è visto più come un lavoro normale, che non c'è tanto il concetto di artista per il mangaka, se non delle rare eccezioni, chiaramente, di estimatori. E come succede questa votazione? Con la famosa cartolina, di cui chi ha letto Bakuman e tantissimi altri manga, come Manga Bomber, avrà sicuramente sentito parlare, la famosa cartolina con cui si possono appunto votare le serie, i capitoli in particolare, che più ci sono piaciuti in questo volume, e quindi decretare il successo di una serie che verrà poi trasposta in volumetto. Come sono stampati questi giornali, queste riviste mega galattiche giapponesi? Su carta esageratamente brutta, su carta non solo riciclata, e questo è un bene chiaramente, ma proprio orrenda, sembrano delle fotocopie fatte male, molti sono sbiaditi in colori diversi, arancione, verde, nei colori più disparati. A volte presentano le tavole, le famose tavole a colori, che però non rendono chiaramente come il volumetto. E ci sono queste decine e decine di serie con qualche inserto a colori, chiaramente soprattutto per le pubblicità, anche se legate comunque al mondo dei manga, e per il resto appunto tutto in bianco e nero e in questi coloracci orrendi. Queste riviste sono riviste settimanali, quindi i mangaka devono macinare a un livello esagerato. Spesso il disegno non rende poi così tanto in alcuni manga, proprio perché comunque sono veramente pressati. Le riviste giapponesi hanno un target, una cosa che io spesso non comprendo dal lettore occidentale, che però può avere un senso appunto se associato alle riviste. Il lettore giapponese che è abituato a trovare questa rivista dovunque, dall'edicola al Konbini, che sono dei market aperti tutto il giorno, anche, non lo so, tipo al tabaccaio loro vedono i manga, sono veramente ovunque. E quindi questa settorializzazione dei target aiuta loro anche a essere più immediati nella scelta di quella che può essere la rivista. Se poi chiaramente il manga piace al lettore giapponese, ma questa è più una cosa che viene vista forse come collezionismo nel paese del sollevante, rispetto a noi che compriamo i manga solo in quel modo lì, anche perché avendo solamente quello è difficile fare diversamente, viene appunto poi chiaramente pubblicato il volumetto. Peggiori rispetto alle controparti europee a livello di qualità della carta, di trasparenza. Si va poi magari un po' a migliorare nelle edizioni deluxe, ma comunque appunto qui siamo sul livello della serie classica Star Comics, che ha la stessa identica dimensione ma senza sovraccoperta, costa 4,30 euro in Italia. Questo costa 390, costava all'epoca 390 yen, ora sarà più o meno uguale. 390 yen erano 3,50 euro, quindi siamo lì, questo è di 20 anni fa. Qui la stessa cosa con Dragon Ball, chiaramente. Poi, avendo le Perfect Edition, tantissime edizioni, i giapponesi hanno magari dello stesso manga, come vediamo anche nell'ultimo numero di Ushi Hattora, dove c'erano tutte le cover, hanno la Bunkoban, sarebbe l'edizione Mignon, stile Yawara, hanno la Kanzenban, che sarebbe la Perfect Edition, l'edizione normale, e tantissime, la Wideban, veramente tantissime edizioni per i manga, ovviamente però quelli più di successo. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà?